Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko ad Andrea Gargiulo ed Enrico Bonfiglioli del Link di Bologna e quindi ragazzi benvenuti a Radio Città Fujiko. Grazie. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Vi chiamo per chiedervi qualche informazione rispetto al festival che ci sarà questo weekend, la due giorni, Contingenze Sonore Fest, al Link, 16-17 ottobre. Di che cosa si tratta? Allora, diciamo che questo festival è nato durante il lockdown da un'idea che avevo avuto io con Luca Martinez, un ragazzo di Milano che fa l'agente per artisti, e diciamo che è venuto fuori perché stavamo cercando di creare un format che potesse andare bene per questo momento, no? Quindi col distanziamento e tutte le varie situazioni che c'erano, chiedere a degli artisti di proporre dei live diversi al solito, e poi diciamo che l'idea era partita in questo modo qua e poi si è evoluta in tutt'altro modo, visto che comunque quando abbiamo pianificato poi il festival è venuto a decadere, diciamo, il distanziamento almeno all'interno dei locali, quindi abbiamo creato questo mix di live su trap hip hop con musica elettronica ed è venuto fuori, diciamo, il risultato di questi due giorni. Abbiamo scelto comunque tutti artisti abbastanza giovani, anche in realtà giovani sia di Bologna o comunque italiane. Abbiamo, diciamo, seguito questa linea, supportando, diciamo, la linea degli artisti italiani per, diciamo, il rilancio generale di quella che comunque è la scena. Diciamo che questo è un po' l'idea di questo festival, di questo fine settimana. Io ho sott'occhio la line-up che è ricchissima e vi chiedo se potete citare qualche nome di chi saranno le protagoniste e i protagonisti di questi due giorni. Allora, sì, è sicuramente una line-up molto, molto viva, diciamo, come ha detto Andrea, è nato anche da un'idea, questo festival, non è di riuscire a creare una situazione in cui i vari generi musicali potessero convivere, cosa che all'estero in realtà è già molto, molto utilizzata, ma noi in Italia ancora stiamo facendo fatica a riuscire appunto a proporre delle line-up miste di vari generi che vanno a prendere anche, come dire, vari ascoltatori differenti. La line-up sicuramente ha dei nomi di punta, come possono essere ad esempio Fuera, un gruppo che ultimamente sta facendo bei numeri, si sta facendo conoscere con anche un genere abbastanza particolare, quindi una rappata sopra a musica elettronica. Dall'altro abbiamo anche Lord Madness, che è sicuramente uno dei pilastri dell'hip hop italiano a livello di old school. Dopodiché invece la domenica dopo avremo Guido Cagiva, uno delle nuove leve, un po' di Alien Fake, e Radical con tutta la crew della 30 e 20, cioè Zirtek, Spender, Moz e Freeman, e appunto anche loro rappresentano un po' questa nuova ondata di trap in Italia, questa nuova ondata sperimentale che nasce su SoundCloud, e sicuramente uno dei nostri, come dire, pallini che abbiamo avuto quando abbiamo creato la line-up era riuscire anche a dare spazio a realtà magari un po' più piccole, in realtà che stanno venendo fuori adesso, che sono venute fuori anche magari durante la pandemia e non hanno avuto il tempo di sperimentare e di come dire, vivere in maniera concreta un palco. L'idea del festival è proprio anche questa, dare spazio ai giovani e creare un nuovo tipo di socialità e un polo aggregativo, che in questo caso sarà il Link, per riuscire a, come dire, avere vari generi, varie persone, varie teste che collaborano per, come dire, costruire una realtà che in questo momento Bologna sicuramente manca. A proposito di mancanze, a proposito anche di luoghi aggregativi, rispetto anche un po' alla situazione del contesto pandemico in cui viviamo, i segnali o comunque le risposte da parte delle istituzioni rispetto a un'ipotetica ripartenza vengono un po' meno o comunque sono molto lente e poco chiare. Lunedì è stato approvato un nuovo decreto per la ripartenza e quindi, diciamo, l'ampliamento poi a livello di numeri di accesso nei locali. Vi chiedo se questo festival può essere anche un po' una risposta da parte di chi però di musica ci vive o comunque cerca di viverci all'interno del settore della musica dal vivo, una risposta per dimostrare che comunque delle opzioni e delle soluzioni possono esserci e sono possibili. Ma sì, assolutamente, noi diciamo che questo festival continueremo a fare nell'esterno comunque del Link, anche per poter, diciamo, sopperire un po' a tutta la questione delle capienze che è ancora comunque in atto. Diciamo che sì, ci sono stati molti rallentamenti da parte delle istituzioni, siamo l'ultimo paese in Europa che sta attuando una politica per far ripartire comunque il mondo dello spettacolo. Diciamo che ci sono ancora delle connotazioni molto forti dal punto di vista delle capienze anche per teatri, cioè, più che teatri, diciamo per i live, diciamo che da quel punto di vista lì un 100% di capienza con delle sedute è ancora una questione molto limitante. Secondo me dovremmo riuscire a passare, diciamo, questa barriera delle sedie, ad andare avanti e ritornare a una situazione normale pre-pandemica. Andiamo ormai verso un 90% della popolazione coperta dal vaccino e quindi a questo punto non capisco più che cosa sia stato fatto fare una campagna vaccinale di questo tipo, la richiesta del Green Pass e tutto il resto, se poi non possiamo ritornare a lavorare a una normalità, quindi al 100% delle nostre risorse, che già se noi lavoriamo al 100% diciamo delle nostre capienze, sono capienze che sono ridotte rispetto a quelle che è la media europea, quindi andrebbe proprio rivisto il sistema del calcolo delle capienze da parte delle istituzioni. È un discorso che è comunque molto più ampio e che andrebbe ridiscusso, diciamo, nelle sedi più opportune, sperando che comunque l'arte, la musica in Italia diventi di nuovo un punto centrale, che purtroppo in questo momento non è. Vengono prima i ristoratori, vengono prima altre realtà che sicuramente non sono la nostra. Speriamo che questo potrebbe essere la volta buona di aprire un tavolo di discussione più ampio per rivedere un po' tutte queste situazioni. Io aggiungo un paio di cose a quello che diceva Andrea, ovviamente condivido tutto. Secondo me un altro punto molto importante qua, e credo che sia una discussione che debba far parlare, è come in Italia riteniamo la cultura, perché evidentemente in Italia, come dire, il ministro Franceschini più volte ci ha detto, fondamentalmente la cultura qua è solo musica da camera, è solo musica con gente seduta, è solo musica di grande spessore culturale, che poi adesso vorrei capire chi ha il diritto di dire chi un artista fa cultura, cioè quale artista fa cultura e quale artista non lo fa, questo non lo so, però insomma quello che noi vogliamo fare anche in questo festival è ridare anche a la musica con cui noi viviamo, la musica che noi produciamo, la musica con cui noi abbiamo a che fare tutti i giorni, venga riconosciuta finalmente come cultura, perché anche il Link fa cultura, anche i locali da ballo fanno cultura e mi sembra, anche i live sono cultura, mi sembra inaccettabile che in un paese come il nostro noi teniamo cultura solo con le 3-4 cose che qualcuno dall'alto impone, quindi secondo me anche questo è un punto molto interessante su cui noi vogliamo lavorare e su cui noi stiamo lavorando anche proponendo questo festival, proprio per far vedere che c'è un tipo di cultura anche diverso, che c'è un tipo di cultura che sta abbandonata, perché parliamoci chiaro, noi in 2 anni e mezzo da quando è scoppiata la pandemia siamo stati totalmente abbandonati, e quello che è successo con Cosmo, per esempio, per citare uno degli artisti più famosi che si è esposto su questa cosa, è un qualcosa di importante, perché insomma Cosmo ha posto dei problemi ma le soluzioni non sono arrivate e manco le risposte sono arrivate, quindi è proprio questo il problema, che il nostro mondo, il nostro tipo di cultura è stato totalmente messo da parte, non considerato tale e non aiutato, ma addirittura non solo non aiutato ma neanche ascoltato, perché noi non abbiamo neanche potuto parlare con nessuno, perché siamo l'unico paese in cui lo diceva prima bene Andrea, un piano di ripartenza sta venendo fuori in questo momento e sicuramente anche insufficiente a quello che noi vogliamo fare, anche perché parliamoci chiaro, noi come dire, siamo anche un locale che vuole pagare e vuole come dire, dare a tutti quelli che lavorano con noi un giusto compenso, cosa che purtroppo spesso nei locali non viene fatto, e questa è una cosa che tutti sappiamo, e anche il signor Conte insieme al signor Draghi sanno benissimo che gli aiuti che vengono dati non finiscono certo nelle casse di chi ne ha davvero bisogno, e questa è una cosa concreta di cui non possiamo non parlare. E insomma, ho aggiunto un po' di carne al fuoco, però era per un po' di spunti di riflessione, anche perché noi facendo appunto cultura non vogliamo solo proporre un prodotto, ma vogliamo proporre delle riflessioni, vogliamo proporre dei punti di vista e anche dei temi di dibattito fondamentalmente. Ragazzi, io vi ringrazio anche rispetto a queste ultime parole, che mi sembra che danno anche un quadro ben preciso e ben chiaro rispetto alla condizione di chi in questo momento cerca di vivere di cultura, producendo anche dei luoghi di aggregazione o comunque di socialità, e invito chiaramente tutte e tutti a partecipare al festival, alla 2 giorni di questo weekend, ricordiamolo, Contingenze Sonore a Link, e ancora grazie, speriamo di vederci presto. Grazie mille a te, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille, a presto.